Visto che ho cominciato la settimana scorsa, vi proporrò, se me lo permettete, un'altra causa, diciamo così, impopolare. Non sono riuscito, con tutta la buona volontà di questo mondo, a condividere il giubilo dell'opinione pubblica democratica per l'avvenuta cattura di Momci Lokrajčnik, il boia di Sarajevo, prelevato nottetempo da un comando della NATO nella sua casa di Pale, nella Repubblica Serba di Bosnia, e trasferito ivico ed immediata in una cella di isolamento dell'AIA a disposizione del Tribunale Internazionale dell'ONU per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia. Suppongo che sia altamente probabile che l'individuo durante la guerra ne abbia fatte di ogni e che meriti ampiamente tutte le condanne che potranno essergli inflitte. Ma che volete che vi dica? Io sono talmente abituato a pensare che un giudizio legale è qualsiasi, che qualsiasi giudizio legale debba prevedere un giudice neutro, nel senso di terzo tra le parti, che nemmeno per un personaggio sgradevole come questo Krajčnik riesco a fare eccezioni. Nessuno può negare che la NATO, che per l'occasione si è attribuita alle funzioni di polizia giudiziaria, nella crisi jugoslava proprio neutrale non è. E quanto al Tribunale Internazionale dell'ONU, visto che il pubblico ministero Del Ponte, interpretando in modo creativo il concetto svizzero di neutralità, ha dichiarato più volte che loro, ad al corso le numerose denunce ricevute contro la NATO, non ci pensano nemmeno, mi permetterete di nutrire qualche dubbio sulla sua terzietà, se si dice così, e quindi sulla possibilità di considerarlo un tribunale vero. La giustizia che una delle parti esercita sull'altra dopo una guerra comporta sempre la volontà di assolvere se stessi affermando, o ha ragione o ha torto, non importa, le colpe degli altri. E anche se nel caso specifico le guerre sono state due, far condannare il boia serbo di Sarajevo può essere un modo come un altro per far passare sotto silenzio i bombardamenti sui civili serbi e i relativi danni collaterali. E non vi parlerò, per non tediarvi, di tutte le altre minuzie giuridiche, dei problemi di competenza territoriale, di quelli di sovranità nazionale e di procedura, che rendono l'azione dei parafrancesi, siano dei parafrancesi, molto più simile a un atto di guerra che un'operazione di polizia. Avete mai sentito parlare di un mandato di cattura segreto, per esempio? Una volta i monarchi assoluti mandavano i loro nemici alla Bastiglia o altrove con le lettere de cachet, ma dalla Bastiglia pensavamo di esserci liberati nel 1789. In realtà il problema non è soltanto un problema di procedure e di competenze, è un problema di diritti, che è più grave. Nessuno può violare la sovranità territoriale di un paese qualsiasi, nemmeno del paese più sfigato del mondo, come immagino sia la Repubblica di Bosnia, per arrestare qualcuno in base a un ordine di cattura segreto, senza averlo notificato e senza che in nessun modo possa essere impugnato. È una violazione dei diritti civili dell'interessato e dei diritti nazionali del paese. E i diritti sono una gran bella cosa, ma non mi avete detto difetto di dover valere per tutti e di non essere revocabili. Dire che uno è troppo malvagio o troppo cretino o troppo colpevole per poter godere dei diritti che spettano a lui come agli altri significa negare un principio, e quando ci si mette a negare i principi non si sa mai dove si va a finire. Adolf Eichmann, per fare l'esempio più sgradevole che mi possa passare per la mente, Adolf Eichmann meritava mille volte di fare la fine che ha fatto. Ma ciò non toglie che il suo arresto, diciamo così, extralegale, abbia segnato per lo Stato di Israele un punto di non ritorno, l'inizio di una deriva le cui conseguenze per la democrazia in quel paese si sono fatte sentire abbastanza presto. Oppure se dal dramma volete passare all'operetta, pensate agli eredi di Casa Savoia. Pensate agli eredi di Casa Savoia. Non c'è dubbio che siano personaggi di scarsa levatura, di modesta intelligenza, antipatici, arroganti e ignoranti come caproni. Ma nessuno ha lo stesso diritto di condannarli per delle colpe che non hanno commesso loro, e impedirgli di entrare nel territorio nazionale non c'è santi, è un'ingiustizia bella e buona. E non ditemi che basterebbe che pronunciassero un giuramento di fedeltà alla Repubblica, perché esisterà bene il diritto di non giurare fedeltà alla Repubblica, maledizione, no? La democrazia ha i suoi prezzi, ahimè, e se si pretende di vivere in uno stato di diritto bisogna rassegnarsi ad accettare certe norme, per quanto fastidio possano darci le loro specifiche applicazioni. Nel caso di Momci Lokrajčnik, naturalmente, se si dice così, Naturalmente il problema è ancora più complicato, perché a essere violati non sono stati soltanto i diritti suoi, ma quelli in un certo senso di tutti i cittadini bosniaci o di tutti i cittadini ex jugoslavi, che d'ora in poi sapranno di essere soggetti a un potere esterno, che potrà decidere in base alle sue leggi, alle sue necessità politiche, di imporre loro la sua giustizia. È una sopraffazione, si intende, magari potrà anche essere gradita a molti, forse addirittura la maggioranza, ma visto che i diritti non si decidono a maggioranza, di sopraffazione sempre si tratta. E tanto comunque che ai governi del felice Occidente, che alle loro organizzazioni militari, ai loro tribunali, dei diritti dei cittadini bosniaci non gliene potesse importare di meno, lo sapevamo già prima. E visto che ci siamo, tanto vale che mi rovini definitivamente la piazza. Tra i titolari di diritti di cui non si può prescindere ci sono, per quanto possa sembrarvi strano, anche i boss della malavita, compreso quelli condannati all'ergastolo con giudizio di primo grado. Se la Corte di Cassazione decide, come ha deciso la settimana scorsa, che 11 di loro vadano scarcerati perché tra un processo e l'altro sono scaduti i termini di carcerazione preventiva, per una volta non fa altro che il proprio dovere, e nessuno, proprio nessuno, dovrebbe permettersi di fare tutto il cancan che si è fatto a questo proposito. E il principio per cui la condanna non è definitiva finché non è definitivo il giudizio, finché cioè al condannato resta la possibilità di appellarsi a qualcuno, non può, può non piacere l'attuale ministro degli interni, che infatti non manca mai di farlo rilevare, ma espressa in termini assai chiari in quella Costituzione che lo stesso ministro ha liberamente giurato di osservare e di far osservare. E l'altro principio, quello per cui la carcerazione preventiva deve avere un limite temporale ben definito, fa parte a pieno titolo della civiltà giuridica contemporanea. Non è un principio inventato, come alcuni illustri commentatori sembrano ritenere, allo scopo di favorire i delinquenti e di ostacolare l'opera dei bravi giudici e degli onesti poliziotti. È stato inventato per impedire, in ipotesi, che un'autorità qualsiasi possa tenere in galera qualcuno senza prendersi il disturbo di fargli quel giusto processo cui tutti, di qualsiasi reato siano imputati, hanno diritto. Non è poi un'ipotesi particolarmente remota, anche perché nel concetto di giusto processo, dopo la recente riforma costituzionale, è insita la condizione per cui esso processo non deve avere una durata illimitata o comunque eccessiva. E l'Italia, in ogni caso, è uno dei paesi in cui i processi si dilano in lungo di più, il che ci ha valso anche numerose condanne da parte della competente Corte europea. Le conseguenze di tutto ciò sono assolutamente ovvie. Se io giudice non riesco a processarti entro X lasso di tempo, non posso tenerti in prigione. Devo, sia pure con fastidio e rincrescimento, metterti fuori. E non posso prendermela che con me stesso, perché non sono riuscito a fare il mio mestiere nei modi dovuti. Al massimo posso prenderla con qualcun altro che mi ha impedito di farlo, ma è un altro discorso. I sistemi giuridici che prevedono questo comportamento possono avanzare una qualche pretesa a essere considerati civili. Quelli che preferiscono prolungare la detenzione preventiva all'infinito, ne va a presunzione che una condanna definitiva che sani tutto prima o poi si finirà comunque con l'arrivare, e comunque chi se ne frega perché tanto l'imputato in galera c'è già, invece non possono definirsi tali. Alle anime sensibili può dispiacere veder mettere in libertà certi brutti tipi, che si aggiungono ai molti brutti tipi che in libertà già ci sono, perché nessuno ha mai pensato di arrestarli, anzi di solito sono loro quelli che fanno arrestare gli altri, ma non si vede proprio come si possa evitarlo. Non è necessario essere un teorico del diritto o avere una mente particolarmente versata nei problemi del giure per capire che se si cominciasse a fare eccezioni per questo e per quello, per uno perché cattivo, per l'altro perché antipatico, il risultato finale sarebbe quello di una perdita secca di libertà per tutti, noi compresi. In fondo, anche a chi non è né un boss né un delinquente generico, può capitare di avere a che fare, come si dice, con la giustizia e scoprire che il più delle volte giustizia nel nostro paese si scrive tra virgolette. Stando così le cose, Stando così le cose, quando il governo nella persona del ministro Guardasigilli, che sente evidentemente il bisogno di fare onore a quel suo bel titolo di origine medievale, risponde alle proteste e allo sdegno suscitate nei media dalla scarcerazione degli 11 boss di Reggio Calabria, che a onore del vero sono 7, perché uno era già morto e 3 sono restati dentro, ma questo non conta. Quando il ministro Guardasigilli risponde con un bel decreto che guarda un po' prolunga per l'ennesima volta quei termini, tutti dovrebbero avere la sensazione come minimo di essere presi per i fondelli, perché a un fallimento del sistema si risponde con prassi consolidata diminuendo i diritti dei cittadini, col risultato che i boss restano fuori naturalmente, a rimetterci saranno una quantità di poveri cristi che al momento stanno dentro e che boss non sono per niente, perché se si concede più tempo ai giudici, a che cosa credete che lo dedichino? Ai processi dei poveracci o quelli importanti che fanno titolo sui giornali e assicurano la carriera? E dovrebbe fare anche un po' di impressione scoprire di avere un ministro capace di dichiarare, come ha dichiarato, che lui non vuole aumentare i termini complessivi della custodia cautelare, Dio ne scampi, ma si limita ad allungarli nella fase iniziale, che è un bel esempio di logica, ma non basta nascondere il fatto che per ora l'allungamento c'è. Invece siamo tutti contenti perché hanno dato un bel giro di vite e possiamo aspettare tranquillamente il prossimo scandalo e il prossimo decreto, che il giro di vite lo stiano dando contro di noi, a quanto pare non viene in mente a nessuno.